far mente locale. Mi guardo allo specchio, rigurgito sale. I ricordi fatti a pezzi dalla birra e dal punch. L'obiettivo è riordinarli su per giù. Sono seduto anzi appoggiato, con i gomiti al bancone. La vescica che si riempie prende la sua decisione. Mi trascino nella turca, cerco la concentrazione, leggendo quelle scritte appena sopra lo sciacquone. Il mio nome Sonia, contattami al 348-38-40-456. Io realizzo le tue voglie più perverse, dai vedrai che non ti stuferai di me. Oppure ciao, sono Katia, la migliore amica di Sonia. Ho una voglia violenta di prendere te. Tu contattaci più in fretta che ti riesce, vedrai che spettacolo in tre. E mentre provo a immaginare quel triangolo un po' strano, una musica raggiunge le mie orecchie da lontano. Mi butto via dal cesso con la lampo aperta ancora, per cercarti quelle note la dimora. Ecco che vedo a 20 passi un folto gruppo di danzanti, sette musici sul palco a sputar fuori i loro canti. Poi lo stomaco si torce, cerca di saltare fuori. La birra che hanno al bar certo non è delle migliori. E intanto le corde che sfregano come in un campo di grano, le spighe attaccate dal vento mi ricordano il silenzio sempre verde di quei boschi che circondano di te. E intanto quei piedi che strisciano forte il selciato ricordano il mare che sgroscia in Salento, e le gonne si arrovellano sul tempo di quei mantici che soffiano pure. Fregato, ballerina sul selciato, la mia mente si segava sui ricordi del passato, ma tu senza far niente hai fatto tutto in un istante, scatenando una reazione devastante. La ballerina sul selciato era di ottima fattura, e come un fiore di campagna in mezzo a troppa spazzatura, la puntavano all'unisono gli sguardi dei presenti, poi cominciò a ballare con una pioggia di commenti, un salto giù da un treno in partenza, come una tempesta che si abbatte a Genova sul porto a bocca d'asse, come il gusto torbido del San Simone, come l'intro della tua prima canzone. La prima autoambulanza sopraggiunta sulla scena del disastro, come un buono sordo e cupo, come un fulmine biancastro. Eri come tutto questo in un secondo solitario sul selciato del paese. E mentre butto via il mio tempo con metafora a cappella, uno sciame di marcioni mi circonda la più bella. E tra il testosterone ed il sudore sciolto assieme, lei scompare tra la folla che la spreme. Lì decido di afferrare in mano questa situazione, mi allaccio alla bottega e mi ergo a solo Salvatore. Assetto antisommossa, stile maggio 68, dimentico però di essere più gonfio di un canotto. Il tempo di trovarmi in mezzo al mucchio, i miei visceri si schiacciano e dissetano il vestiario di danzanti e pretendenti, la cascata che abbandona la montagna per poi scorrere tra i larici d'autunno. Un frullato di mazzate mi ricorda l'esistenza del dolore e di tutto ciò che un uomo riesce a fare per amore. Quel pesante mi conduce a coricarmi sopra l'erba fredda e fradicia di un prato. Ed è lì che mi hai trovato, ballerina sul selciato, su quel letto di rugiada che ben presto avrai accusato. Un calcio ben piazzato, forte dritto sulla schiena, mi ricorda con vergogna quella scena. Strette strette le mie nobili intenzioni, di come avrei voluto trarti in salvo dai fattoni. Poi ti volti e mi dimentichi più fredda di quel prato. Ti vedo scomparire sul furgone colorato. Così finisce la tragicommedia e cominciano le balle raccontate ai miei compagni ancora fermi sul bancone. Una notte di scintille, una notte tra le tante notti in tenda di passione. Ora è tempo di tornare verso casa, dopo l'ultima dorata di quel punch al mandarino che ricordo.